24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti e 26 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Buongiorno Maria Latella. Ciao, buongiorno Simone, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, ciao. Ascoltatrici e ascoltatori che ci possono raggiungere al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Ospiteremo tra poco il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, parleremo ovviamente di pensioni in una giornata nella quale, ve lo segnalo, il Sole 24 Ore pubblica la guida alle pensioni 2020, c'è dentro un po' tutto per capire se siete in condizioni, condizione di sì, perché ci sta provando, chi vuole pensare al futuro. Devo dire che è una cosa di quelle per i quali i giornali svolgono un ruolo di pubblica utilità. Da quota 100 opzione donna, c'è un po' tutto, insomma, ci torneremo tra poco appunto a parlare di pensioni. Però, le vostre domande le aspettiamo e se volete potete contattarci e sapete come. Cara Maria, però, i giornali svolgono un ruolo, come dire, di pubblica utilità anche quando mettono in luce, caro Simone, la stupidità umana. Questa mattina, per esempio, sul Guardian ho trovato la prova di quanto noi esseri umani possiamo essere veramente degli allocchi, perché la Yamaha ha lanciato un allarme proprio dalle pagine del quotidiano britannico per dire: state attenti, non imitate Carlos Ghosn, non vi chiudete dentro le custodie degli strumenti musicali perché è pericoloso. Sembra, così racconta Justin McCurry da Tokyo, sembra che dopo il caso che è stato così, diciamo, pubblicizzato e enfatizzato dell'ex boss della Renault Nissan che sarebbe fuggito dal Giappone nascosto nella custodia di un violoncello, altri, evidentemente, come dire, non proprio capaci di intendere di volere, si mettano in gioco così e postando poi le foto della loro esibizione. E la Yamaha, che teme che qualcuno ci rimetta la pelle e che poi se la prendano con lei. Tra l'altro, Maria, noi non sappiamo se effettivamente Ghosn è fuggito in questo modo, perché lui nella conferenza stampa ha risposto a pochissime domande, ha fatto praticamente un'ora e mezza di comizio nella quale all'unica domanda su questo tema ha preferito non rispondere, perché non raccontare fa parte come sono andate della narrazione le cose. Romanzesca, certo. Ma le cose sono andate in un altro modo. Certo. C'è un altro tema, tra i tanti temi in primo piano in queste ore c'è ovviamente la vicenda di Bibbiano, perché ieri c'è stata la chiusura delle indagini. Insomma, ci sono. E mi ha veramente un po', diciamo, colpito che anche su una inchiesta così delicata, che mette in luce un presunto, poi vedremo se confermato, cinismo che secondo la procura di Reggio Emilia ci sarebbe dietro questo manipolare i bambini per guadagnarci, perché questa è l'accusa, poi vedremo se confermata, ecco, anche su questo si faccia ricorso a questa italica abitudine di scaricare sempre su complotti o presunti interessi quella che è la realtà. Faccio riferimento a quello che è stato subito la mossa dell'avvocato di una delle imputate, l'assistente sociale Aghinolfi, che ha detto: mi sembra strano che questa la presa di posizione della procura che ha chiuso l'inchiesta proprio in questi giorni, ma guarda un po' a pochi giorni dalle elezioni stampa, in Emilia Romagna. Però se invece la procura avesse deciso in maniera diversa, non avesse chiesto il rinvio a giudizio degli imputati, l'avvocato avrebbe pensato in modo diverso. Cioè, stiamo parlando di bambini. Possibile che questo avvocato non si renda conto che non puoi strumentalizzare sempre tutto, anche quando ci sono situazioni delicatissime. L'avvocato fa il suo mestiere, l'avvocato fa il suo mestiere, ma ci deve essere un limite al cinismo, anche almeno questo. Davanti ai bambini alziamo le mani e trattiamo i bambini in maniera diversa da come trattiamo con cinismo tutte le altre cose che riguardano tutta la vicenda, permettimi, però tutta la vicenda è stata trattata con cinismo, Maria, cioè, quindi non è che l'avvocato arriva a buon ultimo, mi pare, sulla vicenda di Bibbiano, se fossero confermate le accuse, i 107 capi di accuse, di accusa che sono rivolte, il cinismo ci sarebbe, come sempre siamo molto cauti. il cinismo politico, non è che l'avvocato arriva a buon ultimo, perché qua il cinismo sulla vicenda di Bibbiano l'ha fatta da padrone, è veramente sulla pelle dei bambini, dovremo dimostrarlo. Invece il cinismo nello sfruttamento politico della vicenda, su una vicenda ancora tutta da chiarire, quello invece è sul piatto ed è ampiamente dimostrato, mi pare, poi per confermato carità, sono anche opinioni, dal cinismo dell'avvocato. È tutto un mondo di cinismo e nessuno si vergogna di essere cinico. A me il cinismo, lo dico con franchezza, non è mai piaciuto. Ero una ragazza molto idealista e molto ingenua e sono rimasta, ahimè, una donna matura, purtroppo, altrettanto idealista, un po' meno ingenua, ma insomma a me il cinismo, posso dirlo, mi fa schifo. No, ma io lo dico all'ascoltatore, guardate che Maria e Dio, no, Maria e Dio, non cinismo. Litighiamo, discutiamo, sì. Ma ci sta, ragazzi, ci stanno visioni diverse, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Ma sì, litighiamo fin troppo cari ascoltatori. Per esempio, l'altro giorno abbiamo discusso sul valore effettivo di questo mega sciopero contro le pensioni in Francia, che siamo arrivati oltre il 40° giorno, il cedimento da parte di Macron. Andrea Garnero è con noi, economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE. Buongiorno Garnero, benvenuto. Buongiorno a voi. Parigi da molti anni, insomma, ormai. Prego Maria. Buongiorno Garnero. Allora, io ho amici che hanno sovvertito le loro regole di vita ormai da 40 giorni, perché per esempio prima i loro figli andavano a scuola con i mezzi pubblici, ora i mezzi pubblici a Parigi funzionano a singhiozzo e quindi c'è tutto un tiro di genitori che prendono la macchina a turno, accompagnano i figli, ma questo sarebbe il meno. Il problema è che tantissime attività a Parigi sono state dislocate giustamente nella più lontana periferia, e ora però quelli che devono andare a lavorare nella più lontana periferia talvolta si svegliano alle 4 perché arrivano da tutt'altra parte. So per esempio che a Sciences Po le attività di segreteria sono, diciamo, si concludono con 3 ore di anticipo, perché poi tutte queste persone devono raggiungere posti lontani. Questo per dire che questo sciopero ha veramente influenzato la vita dei parigini, ma anche nel resto della Francia. La domanda è: la mossa di Macron, che di fatto ha adottato la tecnica del rinvio, non ha detto non si fa più, ha detto ne parleremo più avanti, funziona? Vedremo domani, che c'è una manifestazione, un ritorno quindi dei sindacati in piazza, vedremo l'affluenza per testare un pochino quanti avrà convinto e quanti no. Certo, ha riportato al tavolo della negoziazione il principale sindacato, il sindacato riformista, come se fosse la CISL in Italia, diciamo, che inizialmente non era opposto alla riforma, perché condivideva il principio di unificare i vari regimi in un sistema unico, universale, quindi con i diritti uguali per tutti alla pensione. Però poi si era trovato contrario e in opposizione al governo, quando il governo aveva voluto, oltre a questa riforma strutturale, diciamo così, delle pensioni, anche aggiungersi la riforma del finanziamento e quindi di fatto aumentare l'età pensionabile. A quel punto lì quel sindacato, che fino a quel momento non aveva scioperato, si era unito agli scioperi. Quello era stato un tornante significativo, perché a quel punto tutto lo spettro sindacale era contrario al governo. Ora Philippe, in realtà il primo ministro, più che Macron, che su questo dossier è stato più nascosto che in altri in altri momenti del passato, Filippa ha proposto quindi di rinviare questo aspetto dell'innalzamento dell'età pensionabile alle generazioni future, un po' più o meno come abbiamo fatto in Italia con Dini, rinviando quindi la piena entrata in vigore della riforma al futuro. La CFDT, quindi il sindacato riformista, ha accettato e ha visto un passo positivo in questo passaggio. Vedremo domani gli altri sindacati. Le ipotesi di modifica, Garnero, rendono sostenibile il sistema pensionistico francese o a suo giudizio, appunto, da economista, dovrebbe, insomma, l'operazione andrebbe fatta subito, insomma, questo rinvio è dannoso? Certo, ha un costo. Potrebbe essere un rinvio utile dal punto di vista politico, anche se l'esperienza italiana mostra che i rinvii sono molto pericolosi, perché poi c'è sempre un incentivo futuro al margine modificare ulteriormente l'entrata in vigore della legge, continuare poi per anni indefiniti, come di fatto è successo da noi dal 95 in poi, a discutere, a rinviare le scelte che vanno fatte sulla pensione. Quindi la questione si pone dal punto di vista politico, è comprensibile, probabilmente prima fare la riforma di struttura e poi occuparsi del finanziamento. Dal punto di vista pratico le stime sono di un deficit tra 8 e 17 miliardi, ovviamente anche la Francia, meno che l'Italia, ma anche la Francia fa fronte a un invecchiamento significativo della popolazione, quindi le scelte non sono rinviabili all'infinito. È possibile che si possano fare alcune cose meglio, ad esempio considerare meglio i lavori usuranti e quindi dare non a tutti la stessa età pensionabile a piena pensione, diciamo, con tutti i diritti, ma per alcune professioni magari cercare di calcolare un'età pensionabile ridotta, quindi per ragioni di giustizia a seconda del lavoro che si fa. Questo non è ancora stato fatto adeguatamente, almeno i sindacati non lo ritengono. Forse questo è un margine in cui riuscire a combinare sia l'aspetto finanziario che l'aspetto di giustizia. Perché è vero che pur Macron, avendo un certo capitale politico, si è trovato quindi di fronte a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni. Perché... proprio questo è quello che le volevo chiedere. Siccome di fatto comincia già, sia pure sotterraneamente, la campagna per la rielezione di Macron, punta a essere rieletto, al momento non ci sono grandi competitor a parte Marine Le Pen, potrebbe spuntare Ségolène Royal in funzione di disturbo. Ma come spieghiamo ai nostri ascoltatori la tenacia con la quale, senza mai perdere un giorno, questi lavoratori hanno bloccato di fatto, no, la vita normale dei loro connazionali senza avere dei contraccolpi di antipatia? Perché è vero che tutti borbottano, ma poi di fatto solidarizzano con gli scioperanti. Sì, questo è l'aspetto in qualche modo più curioso e certamente unico, perché da una parte in qualche modo in Francia è più facile bloccare il paese, perché il paese è molto parigicentrico e Parigi dipende tantissimo dai suoi trasporti, dalle sue linee di metro e di ferrovie leggere, quindi è sufficiente bloccare queste metro per bloccare Parigi, in qualche modo bloccare il paese o sicuramente fare notizia, e in questo i sindacati lo possono fare perché sono in quelle strutture molto ben organizzate, e poi perché i ferrovieri e i conduttori di metro sono quelli che potrebbero perdere di più dalla riforma, quindi hanno anche un interesse diretto, e poi perché hanno casse di sciopero importanti, quindi non perdono completamente lo stipendio chi sciopera, perché il sindacato ha dei fondi con cui compensare, perché altrimenti 40 giorni di sciopero sarebbero difficili per chiunque senza stipendio. Questo è un aspetto, però l'altro aspetto è il supporto generale che si vede nei sondaggi da parte della popolazione francese nei confronti del movimento, e questo dal mio punto di vista, che non è iperscientifico, quindi parziale, è ampiamente pronto a essere discusso, riflette due cose. Uno, che in qualche modo tutte le generazioni di francesi hanno un po' il mito di una piccola rivoluzione, un piccolo sciopero, che fosse quello del 95, che fosse il 68, e quindi forse qui è raggiunto il momento di un grande sciopero marcante, e che peraltro ha rimesso al centro i sindacati dopo che erano stati esclusi dai gilet gialli. E il secondo punto è che ovviamente questa riforma viene vista anche se una riforma di equità, in parte perché è stata spiegata molto male. Lo sciopero è partito prima che la riforma fosse annunciata, a forza di dire e controdire, però la viene vista come il primo messa in discussione di una serie di diritti, e quindi l'idea dei francesi, magari del francese medio, che se si cede su questo, anche se non mi riguarda, poi domani verranno da me a prendere i miei diritti, e quindi oggi sciopero anche se non mi riguarda, o sostengo lo sciopero. Grazie. Andrea Garnero, economista del Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE da Parigi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, una pausa e poi andiamo con le nostre pensioni, con Pasquale Tridico. Mattino. Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno, presidente. Allora, al di là del fatto che anche lei avrà dato un'occhiata alla guida del Sole 24 Ore sulle pensioni, però le chiedo, alla fine del 2021 scadrà la sperimentazione di quota 100? E c'è il rischio di creare un nuovo episodio di scalone fino a 5 anni per chi punta alla pensione anticipata. C'è un'ipotesi allo studio, che è quella di quota 102, che prevede il ritiro dal lavoro per chi ha almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Le sembra un'ipotesi efficace? Mi faccia dire prima una cosa. Lei ha detto appunto c'è questo scalone che si verifica, certamente, però noi stiamo già vivendo in un periodo di addolcimento dello scalone, cioè a dire quota 100 nasce proprio con l'esigenza di dire ammorbidiamo la flessibilità verso la Fornero che esiste già, quindi come dire noi stiamo già in un periodo di scalini sostanzialmente, per 3 anni abbiamo una sperimentazione, una formula provvisoria che consente a chi ha non aveva diritto di andare in pensione anticipatamente, altrimenti aspettando la Fornero, già adesso. Quindi, come dire, già stiamo vivendo. Questo è un equivoco che purtroppo si porta avanti e non si vede appunto il problema. Noi stiamo già vivendo in un periodo di addolcimento verso la legge del 2011, la riforma cosiddetta Fornero. Dopodiché, vogliamo pensare ancora a un addolcimento a scadere del 2021, questo stiamo dicendo, ed è giusto, ci sono diverse proposte, 102, quota 100 tutta contributiva, io non so quale sarà alla fine la proposta, anche perché il Ministro del Lavoro ha chiamato un tavolo per il 27 di gennaio, ed è un tavolo sostanziale, nel senso che lì si arriva veramente con la volontà di come dire, di fare qualcosa condiviso con i sindacati, con i partiti sociali, con i datoriali, con i lavoratori, insomma col governo, e allora le varie ipotesi che oggi ci sono come dire, ipotesi che valgono molto poco finché appunto non si arriva al 27. Certamente 64 e 38 era qualcosa di cui già si discuteva, ma anche quota 100 contributivo è qualcosa di cui si discuteva, oppure, o ancora, senza oppure, ma in modo parallelo, pensare a quello che probabilmente potrebbe essere più la formula più vicina alla realtà, una pensione molto flessibile per categorie di lavoratori, considerando la gravosità di ciascun lavoro e quindi concedendo da una certa età in poi di andare in pensione in funzione dei lavori che si sono svolti per un certo numero di anni, quindi con una flessibilità che rispecchia quanto più possibile la gravosità del lavoro. Sì. Non pensa, Tridico, che tutta questa discussione, a partire dallo stesso provvedimento di quota 100, sia frutto di in realtà di uno strabismo, e lo strabismo è il seguente: noi abbiamo l'OCSE che ci dice che l'età effettiva di pensionamento, come lei sa, in Italia è molto più bassa di quanto non sia quella nominale, è a 62 anni ed è 2 anni sotto la media dell'OCSE, no? In sostanza. E quindi, insomma, l'idea è che lo strabismo parta dal fatto che in realtà l'età di pensionamento italiana non è così alta come pensiamo che sia. L'età effettiva è determinata da tanti fattori, non dalla legge. La legge giustamente deve pensare a una riforma a regime e soprattutto di lungo periodo. L'età effettiva è determinata anche da tutte le anticipazioni che oggi lo Stato mette a disposizione, da opzione donna, ad esempio, che permette alle donne pensione a meglio, comunque gli assegni dati sotto forma di pensione anche sociale per persone che hanno invalidi in casa, eccetera. Quindi ci sono tante forme, tante eccezioni che effettivamente abbassano l'età effettiva, ma a regime, quindi come norma di lungo periodo, la legge deve prevedere una età ragionevole. Molti considerano che, come dire, fare dei lavori gravosi per troppi anni abbassa l'età della vita, l'aspettativa di vita, e quindi, come dire, mandare un minatore a 67 anni oppure un edile a 67 anni è poco ragionevole. È quello che dicono anche gli cheminots francesi quando dicono: ma voi vi fidereste di uno di 70 anni che guida un treno, che guida un autobus? Infatti stanno scioperando proprio per evitare quello. Però quello che mi... Maria, ti interrompo un attimo, scusami, per una questione puramente tecnica. Dato che l'audio con il presidente Tridico non è un granché, adesso proviamo un attimo a recuperarlo. Abbiamo 3-4 ascoltatori che ci hanno detto, ci hanno scritto: guardate, non si sta capendo niente. Andiamo un attimo in pausa con un filo di anticipo. Dico agli ascoltatori che, se vogliono, per le loro domande c'è anche l'800 24 00 24, e nel frattempo proviamo a recuperare il presidente dell'INPS Tridico, vedere se riusciamo ad avere una linea decente. Pausa. Giusto per chiarire ad un ascoltatore, non abbiamo detto che l'età pensionabile è bassa in Italia, non è l'età pensionabile, ma l'età effettiva di pensionamento, cioè quando poi effettivamente si va in pensione. Abbiamo cosa recuperato... che ci stava confermando, esatto, proprio il presidente dell'INPS Tridico, che abbiamo recuperato e speriamo con un audio migliore. Tridico, ci sente? La sento. Ci pare meglio, vai Maria. Volevo passare all'altro tema che è oggetto di grande dibattito, ed è il reddito di cittadinanza. Lei in Parlamento ha detto che i beneficiari sono 2,5 milioni di italiani, ma di questi gli occupabili sono soltanto 740.000. Allora, il problema è: noi continuiamo ad avere un altissimo tasso di disoccupazione, giovanile, un altissimo tasso di disoccupazione femminile. Il reddito di cittadinanza, l'ha detto sempre lei, non crea lavoro in senso letterale. Ma non sarebbe forse opportuno mettersi lì, spremersi le meningi e trovare il modo di utilizzare questi fondi per creare investimenti e lavoro, non finti lavori? Di finti lavori l'Italia ne ha avuti per decenni, no? I finti lavori nella pubblica amministrazione, non voglio generalizzare, per carità, però era un modo di dare uno stipendio per tanti. Ora, che cosa possiamo fare per non alimentare semplicemente un'assistenza che finisce lì? Io la penso in questo modo. Lei ha sollevato alcuni problemi, ha detto che c'è un alto tasso di disoccupazione, un problema femminile di disoccupazione. Non ha sollevato un problema che a me sta molto a cuore e a che a tanti sta a cuore, cioè l'elevato tasso di povertà. Noi ogni giorno registriamo, fino all'anno scorso, una povertà crescente. Di questa povertà una società avanzata, una società civile, deve farsene carico, anche perché molti di quei poveri non avranno poche chance di lavorare in ogni caso, sia con investimenti sia senza investimenti. Guardi, mi piace usare una parola di Papa Francesco quando parla di residui umani. Il capitalismo crea dei residui umani, crea oltre che dei residui ambientali anche umani, e la società se ne deve far carico attraverso progetti di inclusione. Il reddito minimo esiste in tutti i paesi europei come lotta e contrasto alla povertà. Dopodiché, all'interno di questa platea di poveri, tutti quelli che possono essere occupabili, noi ne abbiamo identificati circa 700.000, 740.000, possono avere una chance che senza quello strumento non l'avrebbero avuta. Dopodiché, io l'ho detto ieri, ma lo dico sempre, le politiche attive, quindi la parte del reddito di cittadinanza in quanto politica attiva, ma la prima parte è politica passiva. La seconda parte, in quanto politica attiva, non crea lavoro. I lavori vengono creati con gli investimenti. Una volta create le vacanze, quindi i posti vacanti, a quel punto il matching, la lubrificazione, la formazione, le politiche attive in generale, quindi anche il reddito di cittadinanza, che dà forti incentivi alle aziende che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza, possono allocare persone sul mercato. Ecco, è questo, ed è un discorso molto semplice. semplice dal punto di vista economico, che dovrebbe far capire che c'è ci sono due obiettivi che il reddito di cittadinanza si prefigge: sconfiggere la povertà o comunque lottare contro di essa, e allo stesso tempo vedere tra questi quali possono essere inclusi. Non a caso c'è un patto di inclusione sociale e un patto per il lavoro all'interno del reddito di cittadinanza. Quali di essi possono essere inclusi e reinseriti nel mercato del lavoro? E vengono spinti verso il mercato del lavoro attraverso formazione, attraverso progetti di inserimento. Dopodiché, se gli investimenti non ci sono, quelle persone non potranno essere, non solo quelle persone, nessuno potrà essere reinserito nel mercato del lavoro, perché il lavoro lo crea, quindi io insistevo su questa parola letteralmente, creare, l'investimento, il posto vacante lo crea l'investimento, non una legge, così come anche il reddito, il decreto di dignità. Il decreto di dignità è stato, a mio parere, lo conferma, ma oggi i dati continuano a confermare la stessa cosa, e molti economisti hanno cambiato idea rispetto alle critiche che hanno avanzato lo scorso anno. Il decreto di dignità è stato un fenomeno, uno straordinario strumento che ha ricomposto a favore del tempo indeterminato il lavoro, quindi diminuendo la precarietà, e questo senza ridurre l'occupazione, senza aumentare la disoccupazione, perché stiamo vedendo che l'occupazione è lievemente aumentata. Poi la discussione sul decreto di dignità, come sa benissimo Presidente, in realtà è aperta. Sul reddito di cittadinanza, Presidente, ci sono state un po' di polemiche nei giorni scorsi su queste frasi che lei ha detto: ha ridotto la povertà, ha ridotto il numero di poveri del 60%. Ci può dare un chiarimento definitivo su queste cifre? Lo spero, e spero che appunto questi chiarimenti, soprattutto metodologici, possano servire per il futuro. Il reddito di cittadinanza dà un massimo a un nucleo familiare di 1.380 euro, anche se ci sono 5, 6, 7 figli. Quindi il massimo a un nucleo che il reddito di cittadinanza dà è 1.380. Ora, l'Istat giudica e valuta, chiedo scusa, la povertà su scala nazionale, diversamente da regione a regione, da città a città. Valuta ad esempio che in una città del nord con 250.000 abitanti, con 4 figli, il tasso di la soglia di povertà, quindi i soldi che bisognerebbe dare a una famiglia per farli stare sopra la povertà, con 4 figli sono 2.129 euro. Ecco, noi dovremmo dare, per sconfiggere la povertà totalmente in quella città, 2.129 euro. Capirà che probabilmente non ci sono risorse. Un po' tantino. Esatto, sì. Abbiamo utilizzato 7 miliardi. Probabilmente per abbattere totalmente quella povertà ci servirebbero altri 7 miliardi. Non a caso il reddito di cittadinanza inizialmente costava 15, veniva valutato in 15 miliardi. Quindi che cosa voglio dire io quando dico che ha ridotto notevolmente la povertà? Nell'obiettivo del legislatore, che era quello di dire: portiamo tutti quanti sopra 780, ma tutti quanti quelli che hanno anche dei patrimoni in banca, dei patrimoni finanziari, quindi se io ho 10.000 euro in banca, quello mi fa reddito, anche se l'Istat non me lo considera come, perché l'Istat considera soltanto i consumi, sì. Per valutare la povertà. Io invece, legislatore, ti dico: voglio prima che tu ti usi i soldi in banca che hai, e dopo, se non trovi lavoro, se non hai null'altro, io ti do il reddito di cittadinanza. Senta. Questo, nella riduzione della povertà, ecco, ha un impatto, quindi nell'obiettivo del legislatore io sto all'80% dell'obiettivo prefissato. Cosa vuol dire l'80%? Il take up, l'espansione, l'obiettivo che era di 1.247.000 nuclei, sì, è quasi raggiunto. Noi siamo a 1.100.000 nuclei, quindi siamo all'80% più o meno di... Presidente, che cosa pensa del sistema che comincia a essere applicato in Francia? Continuiamo a essere collegati al paese del quale abbiamo parlato nella prima parte. Che cosa pensa del sistema che comincia a essere applicato in Francia, con l'occhiuta, diciamo, presenza del fisco francese anche su tutto quello che è l'esibizione del proprio stile di vita sui social? Questo in Francia cominciano a farlo controllando tutto quello che uno pubblica su Instagram, i ristoranti dove va, le macchine che usa, tutto quanto, e in Francia cominciano a farlo perché anche lì hanno un problema, seppure minore, molto minore rispetto all'Italia, però hanno un problema di evasione fiscale. Secondo lei funzionerà? Ma io penso che se la domanda, come dire, prende la parte più, diciamo così, più economica della domanda, quella che riguarda il trade-off esistente tra la privacy e la lotta all'evasione. Io penso che laddove ci sono obiettivi di lotta all'evasione, in un paese come l'Italia, dove l'evasione è molto alta, dove si supera la soglia di 110 miliardi che sfuggono al fisco, ecco, dovremmo essere più incisivi sui controlli. Quindi, come dire, se l'obiettivo è riusciamo a ridurre questa evasione, che alla fine è ciò che ci crea grossissimi problemi nella distribuzione della ricchezza, a quel punto lo Stato può sicuramente avere un comportamento più incisivo, e quindi quello che potrebbe essere definito più invadente rispetto alla privacy delle persone, perché appunto dove ci sono ragionevolissime ragioni, motivi per approfondire i controlli, l'hanno fatto anche altri in passato, Visco, Monti, ecco, in quel caso mi pare giusto approfondire questi controlli, e quindi rischiare in termini di moderni di violare la privacy. Dopodiché considero invece sbagliato, per scuti di motivi, andare alla ricerca delle persone, dei comportamenti, oppure ancora di più per motivi elettorali, gli algoritmi che si usano sui vari social per catturare le persone. Ecco, questo è assolutamente da criticare. Vabbè, quello naturalmente, Presidente, è un altro argomento. Gabriele da Milano, buongiorno, rapidissimo per favore. Buongiorno, rapidissimo. Io sono un giovane milanese che da poco si è avvicinato alla politica in un giovane partito che si chiama Volt, e l'ho fatto principalmente perché sono molto... Però Gabriele, se viene qua a far pubblicità, abbia pazienza. Però se viene qua a far pubblicità, abbia pazienza. L'impegno politico è una... Gabriele, però, così non gira. Era solo per giustificare il fatto che sono entrato con un impegno politico, perché sono arrabbiato del fatto che in Italia si parla solo di investimenti alla povertà sugli anziani, e quindi sulle pensioni, senza mai pensare che questo sta creando uno strappo generazionale molto forte, soprattutto per quelli come me, giovani, che in realtà sono la nuova non proletariato italiano e la nuova classe fragile. Vorrei capire questo come... col Presidente, che risposta dà ai giovani che si guardano al loro futuro, chiarissimo, della prossima pensione. Va bene, c'è questo tema, Tridico, c'è un tema di strappo generazionale, c'è un tema generazionale sicuramente, e ha a che fare anche con quota 100, diciamocelo. Guardi, posso farle, secondo me non ci si occupa in questo paese soltanto di vecchi oppure di poveri, non è vero, passa per una narrativa sbagliata, se è così. Le faccio un esempio, come dire, molto, molto neutro in termini politici, soltanto fattuale. Nel 2015 si fa una riforma, Jobs Act, che punta molto sugli incentivi verso le aziende. Vengono spesi circa 17 miliardi di incentivi per favorire un incremento di occupazione sia giovanile sia come dire, più generale, per favorire quindi l'incremento che c'è stato. C'è stato un incremento molto forte di tempo indeterminato. Nel 2019 si decide di avere un altro obiettivo, che era stato sollecitato moltissimo dai dati dell'Istat, che avevano visto nell'ultimo decennio, soprattutto durante la crisi, l'incremento di tasso di povertà, quindi di individui in povertà, che era passato da 1,5 milioni a 5 milioni. Ecco, sono delle priorità che rivolte molto alla politica ha, rispetto anche alle preferenze sociali di alcuni partiti, di alcuni contesti, e che ha deciso di affrontare. Quindi, a mio parere, non c'è una oggi, cioè, come dire, c'è perché in passato era stata diversa un po' l'attenzione, oggi c'era quella come priorità, e giustamente il legislatore ha deciso di rispondere a quella priorità. Però il problema Tridico è che noi abbiamo il più alto numero di ragazzi che non lavorano e non studiano, e non studiando molto probabilmente non troveranno mai un lavoro che non sia lo racconta molto bene Luca Ricolfi nel suo Società Signorile di Massa. Questo del quale abbiamo parlato, e però purtroppo dobbiamo chiudere. Avremo occasione di ritornare da Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, una prossima volta sicuramente su questi temi, e non solamente su questi. Dobbiamo chiudere la trasmissione veramente. Grazie Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Cara Maria, ci risentiamo domani 8:20, ovviamente. Buona giornata a tutti. Ciao Simone, ciao ai nostri ascoltatori, arrivederci, presidente. Non abbiamo nemmeno il tempo per i titoli di coda. Ci sentiamo domani alle 6:30. Ciao.